Ciao a tutti, ringrazio Laura innanzitutto e Paolo che mi hanno dato la possibilità di essere presente qua stasera mostrando un pezzo della mia storia. È cambiato qualcosa da 4 anni fa a oggi? Se prima avevo solamente mezza azienda agricola seminata in biologico, oggi è tutta l'azienda agricola seminata in biologico. Non coltivo più i miei frumenti come se fosse marijuana, perché a poco sono riuscito a renderli legali, a dare il nome sulle fatture, perché è una cosa importante dare il nome al prodotto che tu produci, perché l'innominabilità ti porta verso l'invisibilità, l'invisibilità ti porta al non essere e quindi alla scomparsa, all'estinzione. Nella mia azienda conservo 4 dei 50 frumenti che sono all'interno del campo di germoplasma. Ci vogliono altri agricoltori in Sicilia che ne prendano almeno altri 2-3 a testa per evitare che scompaiano. Il problema è che la terra veramente trema di paura, perché chi ha messo le mani sulla natura, e noi facciamo parte della natura, significa che ci hanno messo già le mani addosso in maniera furtiva, senza che noi ce ne siamo accorti. Ci hanno messo le mani non solamente addosso, ma hanno impugnato la nostra anima. Tengono la nostra anima in mano. Come? Avendoci rubato il seme, a semenza. Togliere il seme a un uomo significa renderlo improduttivo, non fertile. Oggi l'agricoltore è nella stessa condizione in cui potrebbe trovarsi un giorno una coppia, un uomo e una donna, che volessero partecipare alla creazione facendo un figlio. La coppia dovrebbe rivolgersi a un ufficio del seme, dove vai a richiedere del seme per poter inseminare la tua donna e ottenere un figlio che non è né tuo e né della tua donna, ma di una entità che non si capisce dove inizia e non si capisce dove finisce. Questa è la condizione che è oggi in agricoltura, che è oggi in natura, ma purtroppo per quello che è la analogia possiamo benissimo applicarlo alla nostra esistenza. E tutto parte dalla terra, perché ci hanno spinto a pensare che l'uomo non faccia parte della terra, ma che faccia parte del cemento, che faccia parte dell'asfalto, che faccia parte di una città assolutamente scollegata dalla campagna, assolutamente slegata dalla natura, e che ogni tanto all'interno di una città ci trovi un parco che ti ricorda l'immagine che appartieni a un mondo dove esistono gli alberi, esistono i prati, esiste una natura dove noi giornalmente attingiamo energia, perché è solamente quella che ci dà l'energia. E il seme è il simbolo di un piccolo posto, minuscolo, dove c'è l'energia che ci permette di continuare l'esistenza su questo pianeta. Oggi noi stiamo facendo un'agricoltura dove utilizziamo 2 sistemi di distruzione di massa per fare agricoltura, quale il nitrato d'ammonio, che erano i rimasugli all'interno dei magazzini delle fabbriche di esplosivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dice, caspita, che ci fa? Finita la guerra, dopo la grande dimostrazione di potenza e di crudeltà da parte degli Stati Uniti con la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, inutile dimostrazione perché la guerra era finita, però gli rimase sullo stomaco questa caterva enorme di nitrato d'ammonio che serviva a fare gli esplosivi durante la Seconda Guerra Mondiale. Dice, che ci facciamo ora con tutta questa caterva di nitrato d'ammonio? Vanno a rispolverare un po' di letteratura agronomica e scoprono che il solito amico Fritz Haber di cognome, un tedesco di origine semitica, avendo studiato Liebig, aveva scoperto come dare l'energia ai vegetali. Dice, caspita, qua siamo. Abbiamo trovato come fare business e applicare il nitrato d'ammonio in agricoltura. Cambiano tutti i programmi nelle università di agraria, formano un esercito di agronomi che spingono i contadini e spiegano ai contadini come applicare il nitrato d'ammonio. Lo stesso Fritz Haber, all'inizio della prima guerra mondiale, perché lui visse in quegli anni, aveva anche scoperto il gas che venne utilizzato nelle trincee durante la prima guerra mondiale. Questo gas venne poi evoluto e utilizzato per fare lo Zyklon B, per uccidere gli ebrei nei campi di sterminio. L'evoluzione con il codice arancio venne utilizzato come defoliante durante la guerra del Vietnam per scovare i Vietcong che difendevano le loro risaie e la loro biodiversità enorme. L'evoluzione oggi serve, di questo codice arancio, serve per diserbare con i fitosanitari fatti dalla Bayer e dalla Syngenta, che facevano, la Bayer faceva lo Zyklon B che servì a uccidere gli ebrei, oggi ti fa e i fitosanitari per diserbare e distruggere la nostra biodiversità, ma ti fa anche l'aspirina. Quindi due sistemi di distruzione di massa per fare il cibo. Un cibo che ha le piante vegetali che hanno dovuto essere modificate geneticamente per essere nanizzati, nel caso del frumento, è dovuto essere nanizzato perché, come avete ascoltato, si sarebbe allettato nel momento in cui gli si dava il nitrato d'ammonio. Quindi lo hanno nanizzato forzandolo con un cannone a raggi gamma del cobalto, trasformando le proteine del glutine o le molecole del glutine in un qualcosa di sconosciuto per il nostro intestino. Perché l'uomo, quando scoprì 9.000 anni fa il frumento e si accostò per la prima volta al frumento e se ne cibò, scoprì che era un qualcosa che gli dava energia, quindi comincia a migliorarlo, a scegliere le spighe che trattenevano per più tempo il chicco di frumento nella spiga, comincia a fare una selezione naturale del frumento perché comincia a fare agricoltura e lì si innesca la prima urbanizzazione e poi la nascita della nostra civiltà e comincia a scrivere anche sul frumento e nello stesso tempo il frumento inizia a selezionare l'uomo, avviene uno scambio, come sempre in natura, perché il glutine, la molecola del glutine in natura è tossica, gluten significa colla in latino, quindi il frumento inizia a selezionare la nostra genia, eliminando tutti quei soggetti che erano allergici o intolleranti al glutine, cioè scompaiono i celiaci. E abbiamo impiegato circa 9.000 anni per abituarci a questo glutine e il nostro intestino aveva tutti gli enzimi per digerire il glutine, quando in una notte del 1974 alla Villa Casaccia di Roma dell'ENEA, che era Ente Nazionale dell'Energia Atomica, oggi Ente Nazionale Ecologia e Ambiente, quindi trasformati, modificano il glutine e ti scambiano le carte in tavola. Il nostro intestino non riesce più a scindere la molecola del glutine in catene di peptoni, peptidi e semplici amminoacidi e a trarre energia, ma comincia a rifiutarla e a innescare delle operazioni di cellule dell'intestino che inglobano comunque la molecola del glutine, non riescono a scinderla e c'è una produzione di radicali liberi che ti dà problemi dalla semplice acidità al cancro al colon, creando una società assolutamente senza energia e con una serie di patologie di cui gli ospedali oggi ne sono assolutamente pieni. Cioè siamo in mano a degli screanzati, idioti, ipocriti che ci hanno dato a disposizione un qualcosa al quale noi ci accostiamo almeno 3 volte al giorno nella nostra civiltà, dove tu ti avveleni e non riesci a trarre alcuna energia. Che se il nostro cervello funziona su base chimica, il nostro pensiero si poggia su una struttura di una materia grigia di 1,5 chili che funziona su base chimica. Se al cervello arrivano minerali o sostanze chimiche, funziona in assenza o in presenza di questi elementi chimici. E questi elementi chimici che arrivano attraverso il sangue, noi li traiamo dal pianeta attraverso questo estrattore, il seme che ti fa una pianta, è un semplice estrattore il seme. Una pianta che ti estrae dal pianeta degli elementi che danno forza al tuo cervello e te lo rendono attivo affinché tu possa produrre pensiero per continuare a esistere sul pianeta. È questo il ciclo che noi abbiamo con la Terra. Il nostro pensiero si aggancia al pianeta e il pianeta è sicuro della presenza positiva di un pensiero attraverso le piante che ti danno... ti danno questa carica, è uno scambio continuo, il tuo cervello deve servire a preservare queste piante affinché tu continui a evolverti su questo pianeta. Hanno interrotto, hanno tagliato questo ciclo, hanno distrutto le membrane protettive che portavano, che conservavano e preservavano questa cooperazione fra il contadino e il pianeta. Questa cooperazione è stata distrutta quando hanno messo le mani addosso al seme, perché te lo hanno cambiato, e una volta che te l'hanno cambiato ti dicono: questo seme non è più tuo, non appartiene a nessuno, se non che alla mia società Monsanto, piuttosto che Bayer, piuttosto che Syngenta, o così saranno poi 5-6 al mondo, detengono l'80% della possibilità di produrre seme al mondo. Interrompendo questo ti hanno tolto la libertà, perché cominciamo, quando al nostro cervello non arrivano più dei microelementi che solamente le piante antiche o le piante selvatiche riescono a estrarre dal pianeta, una pianta migliorata, non, migliorata geneticamente, non riesce a estrarti i microelementi che ti attivano quelle aree del cervello che ti fanno cogliere le sfumature del l'universo in cui tu vivi, o agganciarti all'armonia del pianeta, o nel gestire anche i semplici rapporti o le relazioni fra persone, fra noi, fra un uomo e una donna. Tutto questo sta scomparendo, queste chiavi di connessioni o questi codici di attivazione di rapporti stanno scomparendo, perché non abbiamo... Tutto è collegato fra enzimi. Chi diceva, non mi ricordo, stamattina mi spiegavano che le corna dei buoi servono alle mucche non per difendersi o scornarsi fra di loro, ma servono a captare delle energie cosmiche affinché il loro sistema gastroenterico funzioni bene. Difatti tutte quelle mucche che sono stabulate e per questione di spazio vengono tagliate le corna o vengono migliorate geneticamente affinché nascano addirittura senza le corna, ogni giorno gli debbono dare antinfiammatori e antibiotici. Quindi tutta questa armonia sta scomparendo. C'è chi resiste, ma chi resiste in campagna, a parte che deve decidere di farlo, deve vincere le paure di coloro che ti si avvicinano e ti consigliano di smettere perché questa strada non ti porta da nessuna parte. Le pressioni dei tuoi vicini che ti pigliano per pazzo, o pensare che ogni anno devi stare anche la notte a guardare i tuoi campi di grano affinché nessuno gli dia fuoco, perché comincia a dare fastidio, perché fino a quando sono 10 ettari, vabbè, non ti considerano. Fino a quando sono 50 ti cominciano a osservare un po', ma quando sono già 200 e il prossimo anno saranno già 300 e fra 2 anni la programmazione ci spinge a essere in 600 ettari, comincia a essere una percentuale che va già al di sopra dello zero e cominciano a darti altri tipi di consigli che si avvicinano alle minacce. E vabbè, gli dici, venitemi a cercare in campagna, che se mi trovate ci facciamo i conti là in campagna. Non faccio accuse dirette a nessuno, perché non mi sembra neppure il caso. E quindi il contadino, al quale hanno trasformato pure il nome in imprenditore agricolo a titolo principale, che è un nome così complesso e scongiuduto che non serve a nessuno dirlo, ma il contadino ha bisogno di coloro che mangiano quello che lui produce, Perché se il contadino ha fatto un passo del genere significa che sta andando al recupero della sua dignità antica, che era quella di produttore di cibo, e non quello di essere il titolare di un distaccamento all'aperto dell'industria o di un centro di trasformazione di combustibile fossile in cibo da presentare e prima ai suoi figli e poi ai vicini e poi sul mercato. Ma se non c'è nessuno che acquista queste cose e se non c'è nessuno che le va a cercare, le va a chiedere, il contadino può resistere forse un decennio, ma poi è costretto a disattivare la sua azienda e a mettersi sullo stesso treno in cui sono stati messi tutti i contadini, compresa anche la popolazione, perché io dico che i treni per Auschwitz non si sono mai fermati, continuano a viaggiare, con una cosa ancora più grave, che chi era sui treni per Auschwitz nel 1940 sapeva che stava andando verso la morte, perché si era sparsa la voce e la sofferenza all'interno dei vagoni era si toccava, si sentiva. Oggi siamo tutti dentro i vagoni che vanno verso un campo di concentramento, ma abbiamo l'assoluta illusione di stare bene, e questa è una cosa molto grave, perché in pochi sono ancora quelli che si sono accorti che bisognerebbe deragliare o far deragliare il treno o lanciarsi fuori dal treno a campo aperto, perché stando sul treno sai che la stazione è sicura, ma sai che cosa ti aspetta alla stazione. Lanciati fuori dal treno a campo aperto, senza nessuna meta, senza nessun obiettivo. Dopo qualche passo stai sicuro o stai sicura che incontrerai la tua storia, incontrerai il tuo destino, scoprirai qual è il tuo compito. E questo lo si fa in campagna, ma lo si può fare in qualsiasi altro settore della società. Quindi un buon deragliamento.